osservato, mio figlio è t'ho creduto morto. Tu pianto padre, ti bacio questa mano sante. Oh figlio ritrovato. Vecchio re senza regno e fuggente, una voce sentì che mi diceva: vieni con me, sarò tua guida per lì. Cadeva fronto e m'asciugava il pianto, mendicava per me. Io, chi sei? E perché tanta angoscia? poi non senti il suo profumo nell'aria nell'anima perdi divina bellezza meraviglia io soffro padre soffro non lo stringiti a me più parlagli tu salvezza non c'è prendi nella tua mano la sua mano Signore abbiamo la vita c'è laggiù questa è la vita padre la vita c'è laggiù io soffro padre soffro mi salvezza la vita cucina mona nera, un camino sol più chiare delle nevi di Toledo. Ferro bronzo mona raggia, ostina da tua capoccia, sol venturi delle nevi di Toledo. Dunque fa saluta tutti, varca i monti dalle flutti, dalla larga dagli nevi di Toledo. Thank you. piangere giù, se in un lontano giorno io t'ho sorriso, per quel sorriso. Yeah.

canta i principi regalci Samarcanda. Fece la sua domanda e con quale gioia gli mandò il boia. Il boia e di fiolo gemmato saga vita con le orecchini come campanelli. Amore chiese tutto il capitano e il germano, il prince dei kirghisi, uccisi, uccisi, uccisi, uccisi. E il tartaro dall'arco di sei comiti, di ricche pelli cinto, estinto, estinto, e decapita, uccisi, stinco, ammazza, uccisi, stinco, ammazza, uccisi, stinco, ammazza. Udite trombe, altro che pace, ma inizia la cerimonia.

oh.